Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Intervento di Mario Draghi che sta parlando oggi all'Università di Roma, intervento di poco fa, l'ultima dichiarazione sui tassi: siamo pronti ad agire ancora se sarà necessario. Dopo il taglio dei tassi dei giorni scorsi allo 0,5%, pronti a tassi negativi se necessario. È una frase molto forte perché è un messaggio che arriva a tutta la comunità finanziaria, oltre che ai paesi dell'Unione Europea, dell'area euro, e arriva anche a chi, come risposta, se mi posso permettere, in maniera indiretta, alle critiche mosse Mario Draghi nelle settimane scorse dalla Bundesbank, dalla banca centrale tedesca, che diceva: attenzione, in questo modo stiamo creando troppa liquidità. Quando la banca centrale abbassa i tassi, il denaro costa meno prenderlo a prestito e si crea più liquidità. L'obiettivo della BCE è creare le condizioni perché riparta l'economia anche nell'area euro, unica area che è rimasta ferma nella ripresa mondiale. Dicevo, la risposta è abbastanza chiara oggi alle obiezioni della Bundesbank, perché Draghi dice: siamo disposti anche a tassi negativi, ossia sotto lo zero, che vorrebbe dire che è più conveniente prendere i soldi a prestito che averli in banca. Questo tecnicamente significa tassi sotto lo zero, ma non è questa l'ipotesi. Dice: siamo disposti anche a far questo se necessario. E poi però, per risanare i conti, dice: meglio taglia la spesa la riduzione della spesa pubblica è quella delle tasse, quella delle tasse. C'è un errore nell'agenzia: è meglio tagliare la spesa pubblica che aumentare le tasse. Su questo devo dire che è difficile dare torto a Mario Draghi. Ancora sulla disoccupazione, rischi di proteste distruttive, poi anche sull'Europa, in cui da 20 anni è in atto una tendenza a concentrare i redditi delle famiglie che penalizza i più deboli. Vuol dire che i ricchi sono sempre più ricchi e chi ha meno ha sempre meno, tradotto in soldoni. Parleremo di Draghi, ma parleremo anche e soprattutto della relazione della Consob. La Consob è l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. La relazione annuale è sempre l'occasione per fare punto su regole della finanza, ma non solo, perché oggi il presidente Vegas, di fronte al presidente del Consiglio Enrico Letta e anche all'ex ministro della giustizia Paola Severino, al ministro Maurizio Lupi e poi vari altri esponenti, tra cui molti ex, a partire da Giulio Tremonti, dicevo, Vegas ha detto: attenzione, l'austerità senza speranza è un detonatore di una crisi generalizzata, le iniezioni di liquidità, cioè dare soldi, stampare soldi, non risolvono il problema. Oggi il vero nemico comunque la chiusura delle imprese e l'assenza del lavoro. In 20 anni è crollato il risparmio, occorre invertire la rotta. E poi anche varie valutazioni sui poteri della Consob: ha chiesto più poteri per la Consob e anche la possibilità che l'autorità di vigilanza intervenga direttamente contro i membri dei consigli di amministrazione, avendo la possibilità di denunciarli ai magistrati, ma anche con forme di esenzione di pena, benefici per chi collabora, così da favorire le talpe. No? Nel caso della criminalità organizzata si chiamano pentiti, qui si chiamerebbero talpe. È un metodo molto utilizzato negli Stati Uniti, cioè per sapere cosa è successo si danno degli sconti di pena a un indagato, a un accusato, a patto che lui parli. Si chiama whistleblowing, cioè il sussurrare nell'orecchio in qualche modo, e chiede che possa farlo anche la Consob in Italia. Perché? Perché sennò spesso è più forte l'interesse a non raccontare quello che è successo nei consigli di amministrazione o in altre situazioni, che perché non si hanno vantaggi. Un vantaggio sullo sconto di pena potrebbe avere un senso. Devo dire, con la criminalità organizzata, al di là del bilancio che uno può fare per le singole voci sui pentiti ha funzionato e come. La borsa, meno 0,45% Milano, meno 0,20% Parigi, meno 0,1% Francoforte, Londra più 0,94%, l'America meno 0,13%. Scende Telecom Italia del 3,20%, Prismian dell'1,70%, Buzzi Unicem dell'1,5%, Banca Popolare Emilia Romagna dell'1,30%, come Tenaris l'1,20% lo perde Parmalat, lo 0,90% sia Intesa San Paolo che il Banco Popolare che Enel. Chi guadagna? Autogrill più 4%, Enel più 2,40%, Mediaset più 1,90%, Monte dei Paschi più 1,60%, Atlantia più 1,30%. Salvatore Ferragamo più 1,20%. Ci occuperemo anche dell'Expo perché oggi il Presidente del Consiglio Enrico Letta è arrivato a Milano sia per la relazione annuale della Consob sia per nominare, come ampiamente atteso devo dire, il nuovo commissario straordinario dell'Expo che è l'attuale amministratore delegato Sala, che avrà deleghe e poteri ampi, ne parleremo proprio in apertura. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook, per scrivere attraverso Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. E allora partiamo proprio da Mario Draghi, già ricordavo alcune delle sue dichiarazioni in questo importante intervento all'Università di Roma. Ascoltiamo quella forse più forte, a mio avviso, che riguarda i tassi di interesse. Dopo il taglio effettuato, dice appunto Mario Draghi, pronti ad agire ancora e disposti anche a vedere tassi negativi se dovesse essere necessario. Cioè la Banca Centrale Europea mette in campo, come ha già fatto col fondo MTI, anti-spread, salva stati, tutti gli strumenti che ha a disposizione, che non sono tantissimi, la leva sui tassi e prestare denaro alle banche, per dare un approccio, diciamo, il più possibile orientato alla crescita, anche se la Banca Centrale Europea teoricamente da statuto dovrebbe occuparsi solo dell'inflazione, ma l'inflazione non c'è. E allora cosa facciamo? O la chiudiamo la Banca Centrale Europea o le facciamo fare il lavoro che fanno le altre banche centrali europee del mondo, dalla Bank of Japan alla Federal Reserve, che si occupano sì dell'inflazione alzando i tassi se i prezzi corrono troppo, ma si occupano anche e soprattutto della crescita economica. Se un'economia è in recessione, la banca centrale cerca di aiutare questa economia a uscire dalla recessione rendendo il denaro il meno caro possibile, quindi più facilmente utilizzabile e che si può chiedere in maniera più facile a prestito. Draghi. Il Consiglio dei Governatori ha deciso per la prima volta di guardare in maniera aperta alla possibilità di ridurre il tasso di interesse sulla facility dei depositi al di sotto dello zero, cioè in territorio negativo. Ci sono molte complicazioni, ci sono molte conseguenze di cui tener conto che vanno studiate con attenzione. E il Consiglio dei Governatori ha deciso di studiare, di analizzare queste conseguenze in modo da essere pronto ad agire se fosse necessario. Inoltre guarderemo a tutti i dati sul sistema che arrivano sull'economia dell'area dell'euro nelle settimane che vengono e se necessario siamo pronti ad agire ulteriormente. Attenzione, Draghi non ha detto porteremo i tassi sotto lo zero, ha detto stiamo valutando e è chiaro che ci sono implicazioni negative, non è mai un bel segnale quando è più conveniente chiedere i soldi a prestito che averli in deposito, no? Perché se li hai in deposito con i tassi sotto zero il deposito bancario inizia a essere negativo, cioè non ti copre neanche dall'inflazione ma neanche a livello nominale. Mentre chi si indebita ne ha un vantaggio perché chiede 1000 euro e ne deve ritornare 999, poniamo. Mentre chi ha 1000 euro sul conto corrente dopo un anno ne ha 999, immaginando un esempio molto molto semplice. Andiamo avanti perché di Draghi, ripeto, parleremo anche dopo. Draghi ha anche detto che se il PIL di certi paesi è debole, e il riferimento all'Italia era d'obbligo, questo è perché non sono state fatte le riforme. Ha chiesto che i paesi che hanno un alto debito, e anche qui il riferimento all'Italia è ovvio, non cancellino gli sforzi fatti nel passato. Oh, adesso vediamo di capire quanto la confusione regni suprema tra Bruxelles e Berlino. Perché io, sapete che sono sempre stato molto critico con i falchi tedeschi, non per dar la colpa alla Germania dei nostri problemi, e anche oggi racconteremo come riusciamo a sprecare soldi, ma perché mentre uno cerca di risolvere i suoi problemi deve avere anche, visto che siamo in Europa e visto che abbiamo demandato a Bruxelles buona parte della nostra autonomia, quasi tutta la nostra autonomia di politica economica, beh, è giusto che l'Europa si renda conto che la sola austerità non serve. E abbiamo criticato nel passato spesso il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, il falco dei falchi. Allora, è con vivo piacere che accogliamo questa dichiarazione che ha rilasciato oggi Schäuble a Stoccarda, lo stesso che disse: ma non è vero che l'Italia si vive male e ci vengo in vacanza, quanto a aperitivo da bar ci siamo. Ma Schäuble oggi ha detto, parlando a Stoccarda: il fatto che alcuni paesi, in riferimento alla Francia e alla Spagna, abbiano mancato gli obiettivi di deficit è triste, ma deve essere accettato. Quindi non invaderemo la Spagna e la Francia, non ho capito. Certo che deve essere accettato, non ce l'hanno fatta, e quindi i governi devono usare il tempo in più che gli abbiamo dato a disposizione per rientrare dal deficit. Mi sembra una frase talmente saggia, talmente, diciamo, normale, che si merita un applauso. Se alcuni paesi non ce l'hanno fatta, che cosa vuoi fare? Dagli le sanzioni, creare una crisi con Spagna e Francia a livello europeo, dagli un anno in più, due anni in più come ha avuto la Francia. L'importante è che c'entri un obiettivo del deficit che si erano prefisse, sta ossessione del deficit allo zero. Allora, applauso a Schäuble sulla via di Damasco. Però dico, la confusione regna sovrana in Europa, perché mentre Schäuble dice: beh, Francia e Spagna non ce l'hanno potuta fare, ne prendiamo atto, usino il tempo per arrivare agli obiettivi che ci siamo messi, il commissario europeo Olli Rehn da Bruxelles a chi gli ha chiesto se, dopo aver concesso più tempo alla Francia e alla Spagna, fosse pensabile di concedere più tempo anche all'Italia, come ha auspicato ieri dal vice ministro Fassina in un'intervista. Rehn ha detto: no, per l'Italia raggiungere il pareggio di bilancio strutturale, quello che abbiamo promesso, che promise Tremonti, è molto importante alla luce del debito molto elevato del paese, per cui per l'Italia no. Così capisco io. Ci spostiamo in Italia. L'approvazione del documento di economia e finanza, la vecchia, no? Il vecchio DPF, avverrà domani alla Camera, l'approvazione nel pomeriggio, e il neo ministro dell'economia Fabrizio Saccomanni, presentando il documento di economia e finanza alla Camera, lo ha definito il primo tassello di un mosaico che sarà seguito a breve da un provvedimento specifico su IMU e cassa integrazione in deroga. Infatti sulla cassa integrazione in deroga, nonostante le rassicurazioni della Ringa, poi vi leggerò alcuni numeri non così belli, e poi ha detto: le previsioni per l'economia italiana sono ancora incerte. Lo ha detto nel giorno in cui l'Istat ha rivisto nuovamente al ribasso il PIL italiano per il 2013, meno 1,4%. Oh, eravamo partiti a ottobre con meno 0,5, poi a gennaio meno 1, adesso meno 1,4, fermiamoci qui per favore. Mentre un pochino di ripresa arriverà nel 2014, più 0,7%, ma nel frattempo sempre l'Istat ci dice che la disoccupazione continuerà ad aumentare un altro mezzo punto percentuale nel 2014. Quest'anno sfioreremo il 12% di disoccupati, e ci dice che la spesa delle famiglie calerà quest'anno dell'1,6%, ci sarà una leggera ripresa l'anno prossimo dello 0,4%. Io mi auguro che veramente il 2014 sia l'anno, e quindi già dalla fine del 2013, l'anno della ripresa, perché troppe volte in questo programma abbiamo raccontato previsioni fuori dal tunnel, la crisi è finita, ci siamo, vedo il rimbalzo, vedo la luce, vedo la Madonna, insomma alla fine abbiamo solo visto altre recessioni. Quindi speriamo che sia la volta giusta, anche se il ministro dell'economia presentando il documento economico e finanziario, ha detto le previsioni sono ancora incerte. Dal documento si evince come il processo di riconduzione dei conti pubblici su un percorso sostenibile sia in gran parte completato con successo, pure in presenza di un elevato livello del debito pubblico. Al contempo si evidenzia come le prospettive di crescita dell'economia italiana risultino incerte e comunque fortemente influenzate dagli sviluppi della crisi che coinvolge l'intera Europa e dall'evoluzione dello scenario economico internazionale. La Commissione europea ha preso atto dell'efficacia della politica di consolidamento portato avanti dal governo in questi ultimi due anni. Le previsioni rilasciate lo scorso 3 maggio stimano un'evoluzione della finanza pubblica che vede un indebitamento netto inferiore al limite del 3% ed un saldo strutturale al netto della componente ciclica e delle una tantum che si avvicina al pareggio nei prossimi anni. L'approvazione del documento a saldi invariati consentirà l'uscita dell'Italia dalla procedura europea di disavanzo eccessivo, permettendo spazi di flessibilità al governo per finanziare la strategia su cui questo Parlamento ha posto la fiducia. Ancora, poi arriviamo ai primi temi di questo programma. Dicevo dell'Istat, ma parliamo anche della cassa integrazione in deroga, visto che ne parlava adesso il ministro dell'economia. Quella in deroga è quella straordinaria, quella in deroga è quella che si applica in maniera eccezionale anche a chi non avrebbe diritto, in particolar modo piccole imprese, artigiani del commercio e anche della manifattura. Allora, la cassa integrazione complessiva, lo dice oggi l'INPS, ad aprile è ancora aumentata. 100 milioni di ore. La cosa più drammatica è che la cassa integrazione straordinaria in un anno è raddoppiata, più 92%, lo dico così magari tutti capiamo cosa sia il problema del lavoro in questo paese, anche chi fa orecchie da mercanti. In deroga e invece è leggermente è scesa e non di poco. Il sottosegretario del lavoro Carlo Dell'Aringa ha detto ci sarà il rifinanziamento, anche perché quella in deroga riguarda 700.000 lavoratori. Chiudiamo questa prima parte, poi passiamo invece anche agli sprechi della nostra pubblica amministrazione. Oggi abbiamo un paio di chicche, in realtà non solo sugli sprechi della pubblica amministrazione, anche su come un paese riesce a farsi male da solo. Però volevo chiudere con Vegas nel suo intervento, non tanto sul mercato quanto sull'austerità. Un'austerità senza speranza può diventare il detonatore di una crisi generalizzata. Non basta fugare lo spettro che incombe sui mercati e sulle cancellerie, quello di un'austerità senza speranza che può diventare il detonatore di una crisi generalizzata. Il necessario risanamento dei conti pubblici nei paesi più indebitati dell'Eurozona non può che realizzarsi in un quadro di crescita economica. La crescita costituisce la condizione indispensabile per migliorare i parametri di finanza pubblica sui quali vengono costruite le manovre. Il risanamento non può che avvenire attraverso un approccio più graduale rispetto a quanto oggi previsto dal Fiscal Compact. Abbassare, non sarebbe più. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli. Super pensioni, non sarebbe più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. Dunque, intanto devo dare alcune risposte al 349-238-6666 e a Facebook. Per quello che riguarda la cassa integrazione in deroga, attenzione, è calata, ma è calata perché l'INPS non ha i soldi per pagarla. Lo dice lo stesso presidente Antonio Mastrapasqua. il calo della cassa integrazione in deroga è dovuto ai noti problemi di finanziamento dello strumento, cioè si è ridotta del 65%, ma perché? Perché non c'erano i soldi per pagarla. Mi scrivono sul dottore, ma insomma io non capisco perché l'Italia non può chiedere e ottenere 2 anni supplementari come Francia e Spagna. Ma lo sai che non lo capisco nemmeno io? Ho capito che abbiamo un debito alto, però abbiamo anche un deficit messo meglio di quello francese e abbiamo una disoccupazione che è la metà di quella spagnola. Non so, ognuno guarda le cose che può, per cui non lo capisco nemmeno io. Non lo capisco nemmeno io. E poco fa il ministro lavoro Enrico Giovannini, che è ex presidente dell'Istat, ha preso il posto di Elsa Fornero, ha detto a margine della laurea honoris causa della LUIS al presidente del BCE Mario Draghi, ha detto: stiamo al lavoro per trovare il modo di fronteggiare l'emergenza sulla cassa integrazione in deroga. Ma andiamo noi, poi arriviamo anche all'Expo 2015, nel giorno in cui sappiamo dal gruppo Rizzoli Corriere della Sera che se non verranno trovati singoli acquirenti, 10 periodici del gruppo Rizzoli Corriere della Sera chiuderanno il 30 giugno, 110 persone vi lavorano, di cui 90 giornalisti, si tratta di Novella 2000, Visto, A, Max, Astra, Ok Salute, Brava Casa, l'Europeo, Yacht & Sail e il Polo dell'Enigmistica. Dicevo, mentre leggiamo queste notizie, vediamo se riesco a far capire come un paese può farsi del male da solo. No, perché qua siamo sempre a dire il turismo, l'Italia ha il suo petrolio nel turismo, nella cultura. Sì, ho capito, magari anche tirare meno fregature ai turisti servirebbe, e non mi riferisco solo ai casi che abbiamo raccontato dappertutto, o deturpare meno il territorio. Ma insomma, come si fa a spiegare a due americani, se non ricordo male, che hanno speso per 4 coni gelato in Piazza di Spagna, dietro Piazza di Spagna, in Via della Vite, in un bar in cima a Via della Vite, con 2 cialde e 3 gusti al cartoccio, hanno speso 64 euro per 4 coni e hanno chiesto spiegazioni a tutti. Ma abbiamo preso, non sono mica seduti, l'hanno preso e l'hanno mangiato per strada. Però al bar reagiscono: guardi, i prezzi sono fissi dovunque, erano inglesi, 2 turisti, possono costare anche 20 euro. Ma uno dice: ma per 20 euro per un cono, ma che ci metti dentro? I prezzi sono quelli, in piedi o seduti non fa differenza. E il proprietario dice: ma dentro quei coni entrano 7 etti di gelato. A parte che mi sembra tanta roba 7 etti di gelato, che cavolo di coni sono. Però questo è l'ultimo caso dei 2 giapponesi che pagarono al ristorante Passetto dietro Piazza Navona 700 euro di conto per un normalissimo menù. Le false guide turistiche a Roma che chiedevano dai 50 ai 150 euro. Il bed and breakfast all'Esquilino, dove a cifre non basse i turisti venivano fatti dormire sui letti a castello. E poi l'americana che trasporta su un'ambulanza privata che ha dovuto pagare 1300 euro. Se vogliamo piantarla, dico ai romani che col turismo ci campano, con più di altri cittadini. Mi piace invece quello che è successo a Treviso, in via Pisa, dove c'è un grattacielo alto 20 piani. Siccome alcuni residenti non vogliono pagare, non saldano le spese condominiali, riscaldamento, luce, acqua e pulizie, sapete che hanno fatto? C'è un buco di 300.000 euro. Hanno messo un badge sull'ascensore: chi ha pagato le spese può prendere l'ascensore, gli altri si fanno i 20 piani o 18, 17 a piedi. Ho capito, ride il tecnico in regia. È chiaro che se uno abita al primo piano può anche non pagare. Sono avvantaggiati quelli che abitano ai piani bassi, una volta tanto, dai. Allora, Milano e Palermo, Milano-Palermo, Palermo-Milano. Milano, un comune non sa più come trovare risorse, soprattutto tagliare la spesa. Il buco è da 437 milioni nei conti del comune di Milano. Fino adesso l'assessore bilancio Francesca Balzani ha tagliato 138 milioni e la scure si è abbattuta anche sugli straordinari del personale: dovranno dimagrire di almeno 8 milioni di euro, un terzo in meno rispetto ai 25 milioni di euro di straordinari che il comune di Milano ha pagato l'anno scorso, anche perché ne pagava 20 milioni nel 2010, 22 nel 2011, 25 nel 2012. Ho capito, e magari c'è meno gente, ma tutti gli straordinari? pesano soprattutto gli straordinari dei vigili urbani, perché quasi la metà di questi straordinari, 12 milioni di euro, vengono pagati ai vigili urbani. L'obiettivo è tornare ai 9 milioni di euro del 2010, risparmiando così 3 milioni. Cercheremo di ottimizzare meglio le pattuglie ordinarie, in modo da non ricorrere a quelle in più. E poi ci sarebbe un modo per risparmiare una decina di milioni almeno, ossia inviare con una mail certificata i verbali di notifica delle multe. Siamo nel 2012, a meno che io non ne faccia richiesta esplicita, perché inviare le notifiche delle contravvenzioni in un comune come quello di Milano, ma in tutti i comuni, costa tantissimo, costa quasi 20 milioni di euro l'anno solo l'invio delle contravvenzioni, no? È vero che è calato di 2 milioni di euro perché il comune ha dato un nuovo appalto, evidentemente qualcuno così era un po' troppo caro prima. Nel frattempo chiudiamo, perché devo lasciare anche le spazi al meteo e poi parlare dell'Expo, chiudiamo col comune di Palermo. Ci sono 17 treni che giacciono da 2 anni dentro il deposito di Roccella a Palermo. Perché? Perché quella devono essere i treni per il sogno del tram a Palermo. La prima ruspa iniziò a lavorare nel 2006. Sapete quanti soldi hanno speso fino adesso? Abbiamo speso, soldi nostri, 216 milioni di euro, perché in corso d'opera, come spesso avviene in sto paese, gli appalti subiscono variazioni e sono arrivati a 300 milioni. C'è un'impresa, la SIS, che denuncia di essere con l'acqua alla gola per i mancati pagamenti e che ha fatto un decreto ingiuntivo all'AMAT, alla stazione appaltante, da 31 milioni di euro, bloccato dal tribunale. Dall'altro c'è il comune che contesta la SIS di aver svolto lavori fuori contratto. E in mezzo c'è la perizia di variante, qui attenzione alle perizie di varianti, perché 88 milioni di euro sono tanta roba e forse c'è sempre il rischio, non perché Palermo ma in generale, che la perizia sia a favore della variante, cioè di spendere più soldi, variazione d'opera. Comunque l'iter amministrativo non è ancora concluso e quindi insomma il tram è il tram del desiderio, col tram chiamato desiderio a Palermo. Chiudiamo, meteo, pubblicità, poi l'Expo, dove una buona notizia arriva, c'è finalmente il commissario straordinario, secondo me è una buona notizia, conoscendo questo paese, ed è lo stesso amministratore delegato dell'Expo. Ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Usiamo una canzone che parla di follia per restare sani, non a caso, la spiego perché il tecnico in regia mi ha detto non la capirà nessuno questo tuo passaggio. Perché? Perché oggi Enrico Letta, nel parlare dell'Expo e nel confermare, anzi annunciare la nomina dell'attuale amministratore delegato all'Expo a commissario straordinario, ha detto ci vuole un po' di follia visionaria, i sogni ci vogliono, se pensiamo di essere qui senza avere un po' di follia visionaria, anche Expo lo era 7 anni fa, era una follia visionaria e oggi siamo qui. Mettiamo così, i sogni secondo me sono, ci vogliono, ecco, se pensiamo di essere qui a fare tutte queste cose senza avere un po' di follia visionaria, insomma l'Expo, io me lo ricordo cos'era 7 anni fa è stata una follia visionaria immaginare di far partire l'Expo, e mi ricordo le discussioni che furono fatte con i responsabili di allora, insomma era veramente un sogno. Oggi siamo qui, è la dimostrazione che i sogni servono anche alla politica arida dei numeri. Basta che poi, lo dico con il massimo rispetto al Presidente del Consiglio, i sogni non si tramutino in un incubo. E il 2015 comunque, secondo Letta, sarà lo snodo, l'Expo 2015, per agganciare la ripresa. Io spero che arrivi a fine 2013, come diceva oggi l'Istat, e un po' di ripresa ci sia nel 2014, però sicuramente può avere un effetto volano. Il successo di Expo 2015 rappresenta una delle priorità di questo governo. Milano sarà capitale europea, come Milano è sempre stata capitale europea, ma sarà a questo punto chiaro a tutti che questa scelta di Milano capitale europea è una scelta che l'intero Paese sostiene. La scelta di fare dell'Expo una delle grandi priorità di questo governo rappresenta uno dei punti qualificanti della vita del nostro esecutivo. È fondamentale l'attenzione massima e ci metteremo la massima attenzione, sia per quanto riguarda il tema del controllo, perché nessuno attorno a questa vicenda possa pensare di fare il furbo, nessuno possa pensare di infilarsi, nessuno possa pensare di usare questa grandissima occasione per attività illecite e illegali. L'impegno che ci mettiamo è totale da questo punto di vista. E poi sentiremo anche le altre valutazioni e considerazioni. Intanto saluto il nostro expologo, si può dire expologo? Salvatore Carubba. Buonasera, ex assessore alla cultura, grazie per la laurea. Assessore alla cultura e Museo del Comune di Milano, autore di diversi libri su Milano, direttore anche del Sole 24 Ore. Allora, Salvatore, visto che c'è chi mi dice: ah, lei sta arrivando ai livelli di Marzullo, la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere. Ti posso fare una domanda alla Marzullo? Fatti una domanda e datti una risposta, così non lavoro. In realtà, quello che vorrei capire, questo commissario straordinario, che compiti per far capire a tutti? Perché già l'amministratore legato Giuseppe Sala c'era. Adesso che diventa commissario straordinario, che compiti in più avrà? Ti chiedo solo un minuto di pazienza, perché la risposta la vorrei dopo il traffico. È chiaro che noi staremo molto attenti sul fatto che non sorga mai il dubbio che la legalità confligga con l'urgenza. Faremo le cose per bene, ma credo che questi anni di nostra gestione abbiamo dimostrato che abbiamo sempre cercato di fare le cose per bene. Andiamo verso l'ultimo miglio, come dice il Presidente del Consiglio, e l'ultimo miglio è un ultimo miglio lungo che durerà 2 anni, che assolutamente siamo consapevoli che non sarà scevro da difficoltà e da polemiche, ma permettetemi di dire, per chi come me è abituato a gestire operazioni complesse, che ho la consapevolezza che i conti si fanno alla fine. E io sono convinto che alla fine il risultato sarà un risultato positivo, anche perché ho con me un team di donne e uomini molto validi. Io di Sala mi fido per averlo visto come city manager di Milano, per averlo intervistato molte volte, poi vedremo, ha ragione Sala, i conti si fanno alla fine. A partire da questo ragionamento, Salvatore Carubba, cioè l'urgenza non deve necessariamente confliggere, essere antitetica alla legalità, vorrei sapere quali sono gli strumenti in più che ha il commissario straordinario. Innanzitutto in bocca al lupo a Sala, all'Expo e a Milano e all'Italia, che ne hanno tutti bisogno. Ma dunque, quando lui era amministratore delegato della società, evidentemente era un soggetto di diritto privato che aveva tutti i poteri di amministrazione della sua società, nominato commissario diventa una figura di diritto amministrativo, quindi la sua figura permetterà di superare, innanzitutto di avere un unico interlocutore per le istituzioni pubbliche e di superare anche tutte quelle controversie, difficoltà di carattere burocratico e amministrativo che sono, come sappiamo bene, la palla al piede delle opere pubbliche del nostro paese, soprattutto quando poi una scadenza è così incombente come quella del 15 e quindi non si può perdere praticamente neanche un giorno. Il commissario straordinario dovrebbe essere un facilitatore di tutte queste difficoltà di carattere amministrativo che sono quelle principali che adesso dovrà incontrare nel corso del prossimo lavoro Giuseppe Sala. Allora, che non ci sia tempo, lo ricordavi tu la volta scorsa, perché i cantieri hanno lavorato di notte per colpa della pioggia, che vuol dire che proprio sei quei tempi così stretti che basta qualche giorno di pioggia, eccezionale per carità, che blocca i lavori per obbligarti a far lavorare gli operai in turno anche notturno, e questo già la dice su quanto inesistente sia il margine. Però a me interessa, perché lo chiedono anche molti ascoltatori, Salvatore, al 349-238-6666 e su Facebook, mi interessa anche il tema della legalità. Su questo lei è stato molto chiaro, perché il dubbio è sempre questo, inoltre già c'è attorno. il commissario straordinario ha poteri straordinari, siamo in ritardo, arriviamo in ritardo, alla fine per fare l'opera la dai, la dico in maniera molto esplicita, la dai l'opera a quello che può farla più velocemente e chiudi un occhio, tra virgolette, o sei meno attento nel fare i controlli. Questo è il sospetto e il dubbio. Beh, però le parole del Presidente eletto e del Commissario Sala oggi mi sono sembrate molto esplicite. Io credo che dappertutto nel mondo si riescono a evitare queste cose. Soltanto in Italia c'è la sindrome che la celerità sia l'anticamera della illegalità. Dobbiamo cercare di vincere questa sindrome. Forse questo è il vero sogno del nostro Paese, dimostrare che si possono fare le cose secondo le norme e anche con un'efficienza pari a quella di tutti gli altri Paesi. Quindi ci sono tutti gli strumenti di carattere giudiziario, di carattere preventivo perché questo rischio venga fugato. Io capisco tutte le preoccupazioni dell'opinione pubblica, però continuo a dire che non possiamo farci bloccare preventivamente dal fatto che siccome un'opera si deve fare in una scadenza, allora necessariamente sarà un'opera affidata alla malavita. Non è così in tutto il mondo, perché deve essere così soltanto in Italia? Io credo che questa sarebbe la vera sfida da vincere, oltre a quella che raggiunge la scadenza del 2015 senza troppi problemi. Sì, io aggiungo una cosa, come raccontiamo anche purtroppo ogni giorno, in realtà, attenzione, il caso di oggi che raccontavamo del tram a Palermo è emblematico, sono i ritardi nell'opera a creare un aumento dei costi e il rischio di infiltrazioni mafiose molte volte, cioè quando si inizia con le varianti in corso d'opera, certo, lì si infila l'andrangheta, visto che parliamo dell'area milanese dove l'andrangheta la fa da padrona, come dimostrano bene le inchieste che raccontiamo da anni, o della mafia o della camorra, cioè è il lavoro che va rilento, che viene fermato, che ha mille varianti, nelle varianti ci sono i subappalti, aumenta il costo dell'opera, a quel punto tu tiri fuori, come nel caso di Palermo, invece che 216 ne tiri fuori 300 di milioni, e allora lì auguri. Se l'opera è celere, fatta velocemente e con un controllo molto forte, dovremmo farcela anche noi. Mi sembra, ed è l'ultima cosa che ho da chiederti, Salvatore, che vi fosse anche una certa condivisione di intenti, insomma, tra sia il neo presidente della Regione Lombardia Maroni che il sindaco di Milano Pisapia, cioè al di là del colore politico. Sì, questo sì, mi ha colpito invece questo scarto che c'è stato fra il sindaco e il presidente del consiglio, che sono più o meno dello stesso colore politico, diciamo. E sulla nomina del sottosegretario, questo mi ha un po' incuriosito, sia sulla persona che sulla collocazione di questo sottosegretariato sotto l'agricoltura e non sotto la presidenza del Consiglio. Forse questa distonia si poteva evitare, sarebbe stato meglio evitare, però certamente il fatto che sindaco di un colore politico e governatore di un altro colore vadano d'accordo su questa opera dimostra che essa è sentita come una priorità dalle istituzioni locali. Questo è molto importante, perché nel passato si era, viceversa, c'era stato un po' il senso di un sentimento diverso, anche col governo, addirittura quando c'era il governo il centrodestra, che era il colore politico del sindaco Moratti che aveva voluto questa impresa, e il ministro Tremonti certo non ha facilitato l'inizio di quest'opera. Quindi ricordiamo lo scontro tra Moratti e Tremonti. Appunto, quindi che, insomma, sono due personalità molto forti. Il clima è cambiato e questo secondo me è positivo. Per dire che prime donne, questa è la scommessa che facciamo tutti. Grazie Salvatore Carubba. A voi. A dopo il... Ciao, buon lavoro Sebastiano. Grazie Salvatore. Come ha chiuso la borsa? Ha chiuso con un calo dello 0,35%, Parigi meno 0,15%, Francoforte meno 0,13%, Londra oggi è chiusa e basta, l'America è invariata, euro su dollaro 1,3070, peggior titolo Telecom Italia meno 2,80, miglior titolo Autogrill più 3,30, ne parliamo dopo il GR, 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso parliamo di borsa, dicevo leggermente negativa Milano, leggermente negative anche le altre borse europee, poi arriveremo alla relazione del presidente della Consob, che ha fatto il punto non solo sullo stato dei controlli sulle società quotate e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Volete un aggiornamento dall'America? L'America in questo momento è invariata. Mentre ha perso lo 0,15% Parigi e Francoforte ha perso lo 0,13%, Milano meno 0,35%. Autogrill più 3,36%, Enel più 2,15%, Mediaset più 1,80%, Monte dei Paschi più 1,5%, Atlantia più 1,30%, Salvatore Ferragamo più 1,20%, Snam più 1%, A2A più 1, sono questi i migliori titoli tra i titoli a maggiore capitalizzazione. I peggiori titoli invece sono, per quello che riguarda Piazza Affari, sempre Telecom Italia meno 2,80, Popolare Emilia Romagna meno 1,38, Parmalat meno 1,20, Enel meno 1, Tenaris meno 0,90%. Ceo Condi, la Radio Core sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, poco mosse oggi le borse, però Telecom da una parte e Autogrill dall'altra. Sì, non è stata una seduta indimenticabile. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Infatti, Autogrill è la migliore, più 3,3%, fondamentalmente il mercato, diciamo, premia l'ufficialità, quello che è il progetto di scorporo dei duty free, che è stato approvato venerdì scorso a mercati chiusi dal Consiglio di Amministrazione, è un mercato che già scommette su quello che potrebbe essere il futuro di questa divisione, con il possibile ingresso di un nuovo socio che potrebbe portare liquidità, oppure addirittura con la fusione con un altro operatore. Citavi invece in coda al listino Telecom Italia, qui il motivo è diverso. Telecom Italia la settimana scorsa è cresciuta molto, un rally in vista di quello che sarà il CDA del prossimo 8 maggio, in cui verrà esaminato il progetto di integrazione con Tre Italia. In più si sono anche delineati nuovi dettagli su quale che dovrebbe essere il possibile scorporo della rete, e insomma, dopo un rally di queste dimensioni alcuni investitori hanno preferito liquidare le posizioni. Enel Green Power più 2,15, penso che sia l'effetto Conti, no? Sì, Conti sono stati intesi diffusi non oggi, fulvio, utile più 53%, è cresciuto anche il MOL. E anche in una giornata in cui comunque le utility si sono ben comportate, a 2A come dici tu ha guadagnato l'1%, in questo caso c'è anche l'attesa dei conti che per la ex municipalizzata lombarda verranno diffusi domani. Bene anche il lusso oggi, beh, niente di eclatante, però più 1,20 Ferragamo, Luxottica più 0,20, no? Beh sì, Ferragamo comunque continua a restare sui massimi, a pensare a quanto è stata quotata, mi sembra 9 euro, è stato sicuramente un ottimo affare chi l'ha comprata in sottoscrizione. Allora, oggi è 23. Oggi è 23. Tra l'altro volete anche il dato dell'indice? No, non è a 17.000 punti, è 16.862 punti per la precisione. Mediaset più 1,80, qui siamo sui massimi dell'anno, a 2,12 euro, può essere? Sì, sono i massimi da aprile scorso all'incirca, quindi più di un anno, è insomma un po' un rally che è iniziato da prima del giuramento di Enrico, del governo di Enrico Letta, e poi che si è rafforzato insomma, con questo governo tra PD e PDL, dal giorno appunto del giuramento del nuovo Premier. Il titolo ha guadagnato oltre l'11%, insomma il senso è chiaro, un governo tra PD e PDL non mette certamente a rischio quello che è il destino, il business delle reti del, appunto, del Biscione. Andiamo sui migliori e peggiori, prima di concludere. E.ON meno 6,7%, IKF meno 5,70%, Cadit meno 5,40%, però tra i migliori Fondieri Assai su del Risparmio più 11%, Fiera Milano, immagino che sia l'effetto forse commissario, sì, assolutamente. Straordinario Sala, mi aveva appena parlato, più 8,90%, Camfin più 6,5%, Fondieri Assai su del Risparmio. Qui ci sono dei movimenti comunque piuttosto... Vero, Sì, movimenti di aggiustamento in vista insomma di quella che poi sarà la chiusura della fusione con Unipol, che come noto è ancora sotto la lente dell'IVAS comunque. E a proposito di lenti, nel ringraziare Ceo Condina, parleremo tra pochissimo della lente, la lente della Consob, ossia quella che è l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, non solo sulla borsa, sui mercati finanziari del nostro paese. Eh sì, perché oggi a Piazza Affari il presidente della Consob Giuseppe Vegas, di fronte al presidente del Consiglio Enrico Letta, anche al ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi e all'ex ministro della Giustizia Paola Severino, ha toccato numerosi temi. E tra l'altro segnalo che nel 2013 c'è già stato un boom delle sanzioni erogate dalla Consob per 22 milioni di euro contro i 10 milioni complessivi di tutto il 2012. Di questo parliamo tra un minuto dopo il traffico. Sarebbe infine opportuno rafforzare i poteri della Consob in materia di condotte illecite poste in essere dagli amministratori di società quotate. Inoltre, la possibilità di attivare misure cautelari finalizzate a impedire che gli amministratori possano perpetrare più gravi comportamenti illeciti potrebbe consentire di intervenire prima che si possano determinare danni irreparabili. Modifiche al vigente approccio legislativo dovrebbero intervenire anche nell'ambito del sistema sanzionatorio. Esso non dovrebbe avere funzione esclusivamente punitiva, bensì di salvaguardia dell'integrità del mercato e di indirizzo dei comportamenti degli operatori. Per questo occorre concentrarsi sugli eventi maggiormente lesivi dell'interesse generale. E questo per quello che riguarda, diciamo, la Consob in senso stretto, forse uno dei passaggi più importanti. Saluto e ringrazio il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti, che è in studio con noi. Ciao Alessandro. Buonasera a voi. Dicevo, uno dei passaggi più incisivi, perché Vegas in sostanza cosa ha detto? Ha detto vogliamo più poteri, ha chiesto addirittura nel senso di a dimostrazione, la capacità di poter attivare misure cautelari contro i membri del Consiglio di Amministrazione, di denunciarli ai magistrati, ma anche di poter dare esenzioni di pena, un po' all'americana se ben ricordo, a chi collabora con la giustizia, in modo da favorire le talpe. Si chiama in americano whistleblowing, no? Il sussurrare all'orecchio. Whistleblowing è fischiare, un po' come l'arbitro, questo è un po' perché, il concetto. Perché, insomma, non dico un pentito, ma una talpa sì. Come mai Vegas chiede poteri, insomma, anche ancora non ha, soprattutto verso i consigli di amministrazione? Beh, questa potrebbe essere una svolta importante, perché come sappiamo finora l'azione della Consob sulla base del, diciamo, il quadro legislativo operante e quello del regolamentatorio può fare e fa interventi esclusivamente ex post, cioè si scopre che c'è stata una frode, ci sono le denunce, c'è l'azione e poi c'è l'azione della Consob, in questo senso, che si basa però su un fatto già avvenuto. Vegas vuole spostare l'azione su, così, il termine ex ante, cioè agire prima che un fatto, un crimine venga consumato. Come è possibile questo? Appunto, come fare? È il potere di agire direttamente sugli amministratori. Finora la Consob poteva agire sugli organi collegiali, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, le altre forme di governance che dovrebbero tutelare il risparmio. Lui dice no, questo non basta, perché ci porta a un intervento a posteriori, lo vogliamo poter fare prima. Come? Su due fronti. Uno, quello che giustamente dicevi tu, cioè la possibilità di trasformare la Consob in una sorta di magistratura economico-finanziaria, che ha modellato appunto in questo senso, è vero, sul modello della Securities and Exchange Commission, che è la Consob americana, che può in tribunale spesso si vedono le cause, la SEC contro General Electric, ma qua non vediamo una causa la Consob contro un, ma solo contro singoli autorità di vigilanza, collegio sindacale, l'abbiamo visto anche sotto altre forme nella questione della Fiat ad esempio, no? Quando c'è stato da decidere come trattare quel famoso lo swap. Allora, questo è un fatto importante, perché è una trasformazione radicale della nostra azione, che la porterebbe appunto a funzione di polizia vera e propria. Si può fare? Certamente si può fare, ma è ovvio che perché la Consob possa fare questo non basta naturalmente una legge, bisogna cambiare completamente il modello organizzativo, spostare di più l'enfasi sulla vigilanza naturalmente, meno sull'aspetto di ispezione a posteriori. Questo significa anche assumere personale adeguato in questo senso rispetto a quello che è stato finora. Ma io direi che poi in generale quello che viene fuori dalla relazione di oggi è quel non tanto, lui non a caso Vegas oggi, c'hanno alcune polemiche dopo la relazione, dicono ma non ha parlato di quello che è successo l'anno scorso. È ovvio che quando si dice l'anno scorso si parla del Monte dei Paschi, parla del caso dei Ligresti, insomma dice, non ha fatto nessun riferimento, ma non l'ha fatto apposta per evitare proprio che si cadesse nel piano delle polemiche, mentre invece come lui ha messo in evidenza fra l'altro nelle ultime righe della relazione, citando Tucidide, dicendo è inutile spingere sugli errori del passato perché si rischia di fare danni al presente e al domani. E che qual è il presente e il domani della Commissione e del mercato? Uno, Vegas ribatte su un tema su cui noi del gruppo Sole 24 Ore abbiamo battuto tante volte, comprese qua, la necessità di avere in Italia un vero mercato dei capitali. Non è possibile che la borsa italiana sia quella che ha meno aziende italiane quotate, quindi aziende nazionali, chiamiamole così, rispetto ai nostri concorrenti. Mancano fondi per garantire capitali alle imprese che vogliono quotarsi, ma anche a quelle che non vogliono quotarsi, perché sappiamo la difficoltà della piccola e media impresa. Ultimo punto che metterei in evidenza della relazione di Vegas, anzi penultimo perché ne voglio citare un altro, la distribuzione dei poteri. Vegas per la prima volta, questo in Italia, devo dirlo, apre una finestra importante dicendo: ma come? A livello europeo è stata fatta l'unione bancaria, è stata creata una vigilanza sulle banche, e perché non lo facciamo per i mercati finanziari? Allora ascoltiamo proprio questo passaggio, perché voglio dire, quando si parla di unione, anche dal punto di vista della politica, si dice spesso: avete fatto l'unione dell'euro, fate l'unione bancaria, fate l'unione delle politiche fiscali, che vuol dire della tassazione, ma anche dell'unione delle manovre, perché senza altre unioni l'euro resta da solo. Allora questo è il passaggio in cui Vegas dice: ma insomma, perché non avere un'autorità di vigilanza, visto che abbiamo un'unica moneta e un accordo che si chiama Maastricht o Fiscal Compact unico, avere anche un'unica vigilanza di carattere finanziario? È il momento di pensare a una riforma del sistema finanziario, una sorta di financial union, nella quale l'autorità europea potrebbe assumere un ruolo più forte in materia sia di regolamentazione sia di vigilanza. L'Europa si presenterebbe così come un'entità coesa e omogenea, alla pari delle principali aree economiche concorrenti che si riferiscono a grandi continenti, come ad esempio gli Stati Uniti, la Cina, l'India e il Brasile. La devoluzione di poteri dall'autorità nazionale a quella europea troverebbe la sua ragione in un accrescimento di tutele a favore dei risparmiatori europei, cui verrebbe assicurato un identico livello di salvaguardia nell'intera area. La centralizzazione della vigilanza in ambito europeo è un processo complesso ma necessario, che potrebbe trovare attuazione anticipando la revisione dell'assetto delle autorità europee prevista per il 2014. La Commissione europea ha già avviato in materia una riflessione. E questo è il passaggio che ricordava Alessandro Paterotti, visto che tu ricordavi però anche la scarsa capitalizzazione complessiva di Piazza Affari. Do due cifre: Piazza Affari vale più o meno 384 miliardi di euro, ma la cosa importante è quanto vale la borsa italiana rispetto al PIL italiano. Allora, vale il 23%, pensate che in Gran Bretagna, vabbè, lì c'è la City, siamo al 110%, ma la Francia, più simile a noi, beh, ha una borsa che vale più della metà del PIL, noi siamo a poco più di un quinto. E poi, per congiungermi al ragionamento di Alessandro, le piccole e medie imprese italiane, che sono oltre l'80% del complesso, in borsa sono appena il 16% delle quotate. Alessandro. E questo perché? Per andare a bomba un po' sul ragionamento. Perché non ci sono fondi di investimento specializzati nella piccola e media impresa italiana. Questo giornale, il Sole 24 Ore, voi della Radio 24, ci siamo fatti tutti portatori di necessità di trovare nuovi canali di finanziamento. Questa è una tesi sposata in pieno da Vegas, che la rilancia anche dicendo: creiamo un fondo dei fondi a cui partecipa il finanziamento tutte le istituzioni italiane finanziarie, i fondi pensione, le assicurazioni, chiunque, qualunque soggetto possa erogare del denaro, in modo da indirizzare questi soldi sulle piccole e medie imprese, sia nel processo pre-quotazione che in quello della quotazione. In Francia, e questo per chiudere, in Francia esiste esattamente questo, il successo è derivato dai fondi specializzati nella piccola e media impresa francese. Tra l'altro, piccola e media impresa che è quella più massacrata dalla restrizione il credito, lo dico per inciso, perché certo, sono quelli che hanno più difficoltà nell'accedere al credito, come la Banca d'Italia ci racconta ogni mese. Il calo dei prestiti, non voglio entrare nella polemica, dei prestiti alle imprese è costante ed è superiore al calo del PIL e anche al calo dei fatturati delle imprese stesse. Ultimo punto, visto che parliamo di chi tutela, di chi vigila i mercati finanziari, è la tutela del risparmio. Allora, Vegas ha detto: in 20 anni il risparmio è crollato, siamo passati dal 22 all'8% del reddito disponibile, e qui c'entra soprattutto la crisi. Certo. Però sappiamo che nel passato, io non devo andare indietro con Banca 121, con Parmalat, con Cirio, e poi potrei continuare, Giacomelli, insomma, sappiamo che il risparmiatore spesso si è sentito, diciamo, non tutelato, per non dire fregato. Allora, sulla tutela del risparmio è chiaro che la Consob è il soggetto deputato. Certo. Allora, che cosa ci dice Begas in questo punto? Questa è una parte importante, perché noi l'avevamo già riscontrato attraverso le lettere anche che riceviamo al giornale, che ricevete voi qua in radio. È la promessa di rendimento. Lui dice sostanzialmente attenti, perché tutti gli scandali che si sono verificati finora sembrano aver insegnato poco o niente agli italiani quando gli vengono promessi dei prodotti o degli strumenti finanziari che hanno, diciamo così, ventilano delle attese di rendimento che sono assolutamente improponibili. Vegas si è soffermato su questo perché evidentemente la gran parte dei raggiri ai danni dei risparmiatori, anche quando non si tratta di associazione a delinquere in questo caso, è proprio nel promettere dei rendimenti, proprio un rendimento di investimenti che sono assolutamente irraggiungibili. Questo che cosa fa? Attira la gente, le famiglie, i risparmiatori a investire su un prodotto per ritrovarsi poi che cosa? Dopo un anno, due o tre, meno del capitale che hanno investito. Allora la Consob che dice? Ci stiamo concentrando molto su questo e con la vigilanza sulle attese di rendimento. E in questo senso voglio evidenziare un'ultima cosa che ha detto Vegas, che forse è anche la più importante. Lui dice, anticipiamo i tempi di introduzione in Italia di una riforma che è stata decisa e si sta anche decidendo l'attuazione a livello europeo, e cioè dare il potere direttamente alla Consob di bloccare la diffusione sul territorio nazionale di prodotti finanziari che magari altrove sono concessi perché troppo rischiosi o mal rappresentati al risparmiatore. Questa potrebbe essere un passo una grande importante. Soluzione, sì, perché l'autorità di vigilanza deve dire: no, guarda, ho capito che tu prometti un rendimento del 12-15%, però o spieghi meglio e comunque il prodotto è troppo rischioso per essere diffuso sul territorio. Nel ringraziare Alessandro Praterotti do due risposte velocissime. Il 23% del PIL italiano sono 380 miliardi, non 180, non so se qualcuno ha capito male, e siamo tra un quarto e un quinto, visto che oggi ho ascoltatori molto precisi, ma va bene così. Vorrei chiudere con un appello invece di Vegas, che va in una linea che voi sapete, questo programma sposa: non si vive di sola austerity. Va bene l'austerity, è giusto che una famiglia tenga i conti in ordine, dobbiamo farlo anche noi, sprechi poco, però se poi tu non fai lavorare il padre di famiglia, la madre di famiglia... Ma magari lui intendeva anche date più contributi alla cosa. E magari intendeva anche questo, per carità, però l'ultimo passaggio di Vegas sull'austerity, che senza speranza diventa un detonatore sociale. Non basta fugare lo spettro che incombe sui mercati e sulle cancellerie, quello di un'austerità senza speranza che può diventare il detonatore di una crisi generalizzata. Il necessario risanamento dei conti pubblici nei paesi più indebitati dell'Eurozona non può che realizzarsi in un quadro di crescita economica. La crescita costituisce la condizione indispensabile per migliorare i parametri di finanza pubblica sui quali vengono costruite le manovre. Il risanamento non può che avvenire attraverso un approccio più graduale rispetto a quanto oggi previsto dal Fiscal Compact. Ed è veramente tutto per questa puntata. Di nuovo un ringraziamento a Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.